Oltre il Ponte, questa sarà la quarta edizione della festa di strada partigiana che si tiene in Bolognina, all'angolo tra via Ferrarese e via Algardi, ed è una festa che proponiamo a novembre per la ricorrenza della battaglia della Bolognina e nelle giornate di avvicinamento, diciamo, alla liberazione, quindi tra le giornate tra la liberazione di Bologna e la liberazione d'Italia dal nazifascismo. Ecco, nell'evento di presentazione, appunto, che si può trovare anche sui social, ovviamente celebrate la liberazione dell'Italia, ma è una forma di resistenza anche nel quartiere in cui vi trovate, in Bolognina, anche nel presente. Sì, appunto, ci teniamo a portarla nel quartiere dove, insomma, abbiamo le nostre attività, perché appunto un quartiere, quello della Bolognina, che è sotto uno stravolgimento, che va avanti da anni, sta cambiando molto, e appunto pensiamo che sia necessario mantenere delle iniziative popolari che nascano dal basso per appunto contrastare lo stravolgimento del quartiere, che sta perdendo un po' la sua vera natura, con interventi da parte sia dell'amministrazione che di privati sotto la riqualificazione, sotto il nome del decoro. Certo, andiamo a scoprire il programma di questa edizione. Allora, il programma di questa edizione: inizieremo alle 10 del mattino di domenica con il rito del bianchetto antifascista al Burnout, dopodiché sul palco, diciamo in fondo a via Ferrarese, il palco Augusto Masetti, si esibiranno al mattino dalle 11 tra i laboratori della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich. Invece dalle 14 sul palco principale, il palco Irma Bandiera, sarà un dibattito dove porteremo la voce di chi rende attuali i valori della resistenza, e quindi dei rappresentanti di alcune realtà che secondo noi resistono nell'attualità, diciamo, dai lavoratori portuali di Genova che bloccano la partenza delle armi, ai lavoratori sfruttati, alla questione femminile sui posti di lavoro e all'ambiente. Dopodiché ci saranno tre band uscite dal contest organizzato da Vecchio Sone e Antifratello, che si esibiranno sul palco degli artisti emergenti che sono stati selezionati a questo concorso. A seguire ci sarà un duo di canti sociali e di lotta di Marson Pluto, che porteranno sul palco canzoni resistenti. Ancora poi ci sarà una lettura spettacolo della compagnia teatrale L'Informale Ippolito Dalvit, che porteranno in scena una lettura di Teuta il Pirata del Po, o la dolorosa storia di come si diventa delinquenti. A seguire il rapper romagnolo Zona MC, che porta sul palco La Storia della Rap Pubblica, l'ultimo album che ha pubblicato, in più presenterà qualche inedito del suo prossimo album. In serata invece avremo in Ad Orchestra, un gruppo di 7 ragazzi che spaziano tra il jazz, suoni elettronici, mescolando la tradizione centroamericana e quella medio orientale, e finiremo con gli Eri in Afrofunk. Sono un esempio di musicisti bolognesi che hanno collaborato per la produzione dell'ultimo EP con Devon Miles, che sarà sul palco, presenteranno il loro ultimo lavoro che si chiama Same Blood. Tutta la festa finirà attorno alle 11 e quindi durerà per tutta la giornata di domenica. Sono previste anche durante la giornata attività per bambini e laboratori di grafica anche per i più grandi. Poi ci sono banchetti, ovviamente anche cibari, è giusto? Ci saranno banchetti di distro, di libri e di varie realtà del territorio che collaborano con noi da diversi anni, e ovviamente cibo a prezzi popolari per tutti e tutti. Dove poter trovare il programma completo? Allora, il programma completo si trova sui social, sulla pagina del Circologramma, quindi l'evento su Facebook di Oltre il Ponte contiene tutte le informazioni, oppure su Instagram, anche lì si trovano tutte le informazioni del caso.